already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. The kind of person that you know is willing to take on hard tasks and in times of war people get emotional. I understand that. I've never really spent that much time frankly worrying about the loud voices. Questi sono i toni solenni, commossi, anche un po' malinconici con i quali appena pochi secondi fa George W. Bush ha chiuso la sua ultima conferenza, il suo ultimo incontro con i reporter alla Casa Bianca. Naturalmente è stato tempo di discorsi, è stato tempo in parte anche di bilanci quelli del primo momento, poi come si dice in questi casi ci penserà la storia, ed è stato anche il momento di rispondere ad alcune domande, anche se la sensazione generale che esce dai primi report dell'incontro è che la stampa in questa occasione sia stata clemente e non abbia affondato il coltello più di troppo. Ha detto alcune frasi anche destinate a essere certamente ricordate sui giornali domani e forse anche un po' più in là. Ha detto per esempio: la presidenza è una cosa che si porta dentro. George W. Bush non è qualcosa che non è una spina che stacchi, insomma è un mestiere, è un'esperienza e forse una vita dalla quale non si retrocede. Ha detto anche: spero che l'atmosfera sarà migliore per il presidente eletto. In sostanza che lo trattiate meglio di quello che avete fatto con me. Si è impegnato a non intromettersi in alcun modo nell'attività di governo del suo successore. Quando me ne andrò, uscirò di scena per davvero, non mi intrometterò più. Questa è una sensazione peraltro assai diffusa, la sua voglia di veramente prendere le distanze dalla Casa Bianca. Obama ha la sua famiglia accanto e per questo motivo non si sentirà mai solo. Stati toccati anche argomenti così ricorrenti, no? Quando si parla di bilancio e di George W. Bush. Ha ammesso ad esempio il 43esimo presidente che esporre lo striscione missione compiuta su una portaerei a proposito delle operazioni in Iraq è stato uno dei maggiori, dei più gravi errori della sua permanenza alla Casa Bianca. Del resto in queste ultime settimane in cui in tour in giro per il mondo lui spesso e volentieri è tornato a riesaminare il proprio lavoro. Alcune cose fanno parte ormai degli errori ammessi, diciamo così, su altre cose promette di rifletterci. Non a caso è già in vista, no, il libro, la sua versione dei fatti, sicuramente nel vicino futuro una delle letture obbligate. Ed è l'atto questo pronunciato da Bush, del quale ancora vengono rimandate le immagini dalle televisioni All News, che apre la settimana, che poi conduce, no? Mancano 8 giorni, conduce alla investitura, all'inaugurazione di Barack Obama, ormai a tutti gli effetti al centro dell'obiettivo, al centro dell'attenzione per le cose che sta dicendo e per il sapore sempre più esecutivo delle cose che sta dicendo. E quando non ne parla lui, naturalmente si parla di lui, così anche nel weekend americano di inizio gennaio. Sempre, comunque e costantemente di Obama si è parlato in tutti i programmi. Per esempio, se vi capitava di accendere Meet the Press sulla NBC, trovavate il vecchio gloriosissimo Bill Cosby, 72 anni, Robinson, no? Avete presente un'icona afroamericana, se ce n'è una, che anche lui ha dato la propria versione dei fatti. Ha raccontato cosa è successo il giorno in cui è andato a votare Obama. Well, I took my father's picture, I took my mother's picture, and I took my brother James. He died when he was 7. Insomma, si è portato la foto di sua madre, la foto di suo fratello James, morto quando aveva 7 anni. È entrato nell'urna, no? Ha chiuso la tendina e ha tirato fuori le foto. Pictures out, and I said, and now we're going to vote. E ha detto, e adesso andiamo a votare. Però dice, per fortuna ho votato una volta sola, non ha fatto come Homer Simpson, no? Che voleva votare e gli continuava a uscire il voto sbagliato. My pocket, and I opened the curtain, and it was wonderful. Poi si è rimesso le foto in tasca, ha riaperto la tendina e ha avuto quella sensazione, cioè quella sensazione così sospirata da tanto tempo. Era meraviglioso. Anche Barack Obama ha fatto due apparizioni importanti nel weekend appena trascorso. Una l'ha fatta alla ABC a This Week, un programma che vede la compartecipazione di George Stephanopoulos, che è stato un portavoce di Bill Clinton, nonché un personaggio mediatico di grande peso, di grande influenza. Adesso fa l'intervistatore e un po' anche l'intelligentone di mestiere. Ha avuto un confronto molto cordiale con il presidente eletto, che si è lasciato andare un po' più del solito sui temi dell'economia, no? Lui insiste a dire che c'è un presidente alla volta, però dice anche che sull'economia è giusto parlare anche da presidente eletto, perché tale è la fretta, tale è la necessità, tale è il bisogno di intervenire, che è inutile mettere tempo in mezzo, come invece ha continuato a fare nelle questioni internazionali, anche se da qualche giorno Barack Obama ha cominciato a pronunciare alcune parole che suonano più o meno come ritardo, no? Ha cominciato ad ammettere che alcune delle promesse fatte durante la campagna elettorale non potranno essere mantenute, perlomeno subito, non potranno diventare realtà coi tempi che erano stati da lui stesso ipotizzati prima del 4 novembre. E ha comunque detto alcune cose sostanziali sulla recessione, alcune cose che sono state poi riprese anche nella sua seconda apparizione di peso del weekend, che è quella del discorso presidenziale da domenica. Vi ricordate, una vecchia abitudine introdotta addirittura da Franklin Delano Roosevelt, è sempre conservata dai presidenti, adesso trasferita di peso dalla radio, dove avveniva abitualmente, sulla rete, è disponibile su YouTube e sui siti della amministrazione, per ora ancora sui siti di Barack Obama, e qui ancora una volta ha parlato di economia. We start this new year in the midst of an economic crisis unlike we have seen in our lifetime. Ha detto, quest'anno fronteggeremo una crisi come non ne abbiamo mai viste. Nell'ultimo mese abbiamo perduto 500.000 di posti di lavoro, per un totale di 2.6 milioni di posti di lavoro. 4 million Americans who want and need full-time work. E poi ci sono altri 3,4 milioni di americani che cercano un lavoro a tempo pieno, hanno solo part-time, e bisogna dare le risposte a questi interrogativi delle famiglie americane, e questo ci ricorda che comunque non possiamo continuare su questa strada. Barack spinge per il suo piano di stimolo da 800 miliardi di dollari. Bisogna ricordare che nello stesso tempo George W. Bush sta ancora premendo per avere accesso alla seconda tranche, no, dello stimulus 2008. Sono altri 350 miliardi di dollari del suo piano per salvare Wall Street. Ormai sembra tanto tempo fa. Le idee di Obama sono al centro, le idee per l'economia di Obama sono al centro del dibattito. Non tutti condividono, non tutti sono entusiasti, si sta già un poco alla volta variegando, no, il panorama di reazioni a quanto il presidente eletto, il presidente dal 20 gennaio, sta proponendo, e c'è chi pensa che Obama non stia percorrendo la strada giusta o che non la stia percorrendo con la necessaria energia. Ad esempio Paul Krugman, in questo momento probabilmente il re della economia dal punto di vista teorico, un Nobel, nonché un editorialista del New York Times, ha scritto il secondo articolo in 3 o 4 giorni piuttosto negativo nei confronti delle posizioni di Obama. Questo, se non altro, oltre ad essere negativo, è anche propositivo. Si intitola Idee per Obama e spiega, con fare abbastanza professorale, a Barack che il problema può essere proprio quello di far ripartire, di voler far ripartire, jump start, no? Di far ripartire troppo in fretta e troppo violentemente l'economia, come se la necessità di fare bella figura potrebbe in un certo senso essere un boomerang per Barack Obama, mentre secondo Krugman ci vorrebbe un programma pluriennale, una cosa più ragionata, più organica, anche se modestamente noi diciamo provate a parlare di programmi pluriennali agli americani. Our first job is to put people back to work and get our economy working again. This is an extraordinary challenge. Ancora domenica ha detto il primo lavoro, ha detto Barack Obama, è ridare lavoro alla gente, far ripartire l'economia, un traguardo eccezionale per il quale eccezionalmente ho cominciato a lavorare prima dell'insediamento. È per questo che sono già all'opera con il mio team, stiamo pianificando investimenti straordinari per attivare l'economia, creare lavori e mettere le fondamenta per la futura crescita. Questo è il Barack Obama ufficiale, del quale torneremo ampiamente a parlare anche nella seconda e terza parte del programma. Abbiamo due ospiti, peraltro annunciati anche sui nostri siti Facebook. Vi ricordo, si chiamano Redazione Jefferson Ming e Jefferson Ming Radio 24. Potete porre domande sia a Platero che a Rampini, che saranno con noi a discutere per l'appunto degli effetti dei provvedimenti, sia interni, sia delle risonanze internazionali di quanto Barack Obama si prepara a presentare al mondo. Ma poi c'è anche una versione, diciamo, un po' più leggera, no, del weekend di Obama. C'è per esempio la storia del cane, sulla quale non possiamo transigere, noi la seguiamo con un interesse maniacale, adesso soprattutto che siamo arrivati alla finalissima, insomma alle razze selezionate da Malia e Sasha, che minacciano di essere il vero tormentone del proprio quadriennio, sono due e sono un labradoodle, che come dice il nome è un incrocio tra un labrador e un doodle, che sarà un altro tipo di cane, o un cane d'acqua portoghese. Una scelta, insomma, non casuale. A un certo punto si vociferava che i cani potessero essere due, invece saranno, per ora sarà uno solo, e Obama ha scherzato, ha detto sinceramente è stato molto più facile scegliere il segretario per il commercio. Poi è andata a fare le prove generali, come quando ci si sposa, no? Insieme a Michelle e alla famiglia è andato al memorial di Abramo Lincoln, davanti al quale giurerà sulla Bibbia di Abramo Lincoln. Ha visitato il museo che è dentro il memorial, vicino alla grande statua del presidente. È stato immortalato da un solito codazzo di reporter e poi si è andato a mangiare un panino, cosa che ha fatto letteralmente impazzire gli americani, perché non è andato al Capitol Grill, non è andato dove si fumano i sigari, no, i cubani, è andato invece in un posto che si chiama Ben's Chili Bowl, in una Avenue U, quindi nella parte nera più povera della capitale, e è andato insieme al sindaco, ha mangiato un chili half smoke, che sarebbe una salsiccia, immagino half smoke, come si dice, affumicata, con contorno di senape, cipolle e chili. Speriamo che non l'abbiano mangiate anche i bambini. Secondo me il general surgeon, prima o poi il chirurgo, no? Quello che si occupa della salute degli americani, il chirurgo generale, dovrà fare un discorsetto a Barack Obama e alla sua alimentazione. Ma insomma, questa è la parte leggera. Il fatto è che siamo a meno 8 e ormai tutti i giochi per Barack Obama sono pronti. Until their hands are black and blue, I'm not answering for no one until my man and I are through. Ooh, when we're making love, answer to nobody, no, no. They can call me on the phone, but no matter how many times that phone rings, I'm not picking up for no one until that fat lady sings. Oh, we will make it love. Now you know the world ain't got nothing, oh, nothing to do when we're making love. I won't answer to nobody but you. Naturalmente funziona anche come sempre il numero 349-238-6666 per mandarci sms riguardo alle cose che vi stiamo raccontando. Ne arrivano almeno un paio interessanti. Giacomo scrive in riferimento alla apparizione di George W. Bush per la conferenza stampa conclusiva della sua seconda presidenza, che più che Bush il vero cambiamento sarà nell'apparato politico e ideologico che al presidente si accompagna, dalla dottrina della guerra preventiva in giù. Un altro ascoltatore scrive: mi dispiace, non mi fa nessuna pena, ha fatto troppi danni. Secondo me l'unica scusante può essere stata che non è stato il solo, si è circondato di persone pessime, speriamo che Obama non commetta lo stesso errore. La solita buona atmosfera che circonda Bush e di cui lui stesso insomma un pochino si lamentava poco fa. Poi scrive anche Simo, che ci fa una domanda che più che più tempismo di così non poteva avere. Dice: ragazzi, ma del sostituto al Senato di Obama e del governatore dell'Illinois non si è saputo più nulla? Se si è saputo. Prima pagina. Adesso glielo diciamo. Arriva Blago. Comunque insomma diamo tempo a Bush, perché probabilmente il tempo sarà gentiluomo con lui tra quando sarà passata questa buriana, questo cambio della guardia. Vediamo invece la Cina, perché se ci sono tempi di crisi in America non è che i cinesi stanno molto meglio, e infatti il governo di Pechino ha appena annunciato che pagherà un bonus a milioni di cinesi che versano in difficoltà, per un totale, la spesa complessiva è davvero imponente, di 980 milioni di euro, quindi siamo sul miliardo di euro, esattamente 9 miliardi di yuan. Complessivamente verranno versati un bonus di 10 euro per chi vive nelle campagne e di 150 per chi vive nelle città. Sembrano cifre irrisorie, ma per i cinesi sono cifre comunque importanti, che possono far svoltare diciamo la fine del mese, un po' come la social card qui dalle nostre parti. Le persone coinvolte dal provvedimento sono 74 milioni e questo bonus arriverà prima del Capodanno cinese, che quest'anno cade tra pochissimo, il 26 gennaio. Naturalmente questa cifra di 74 milioni non è casuale, perché è calcolata su quella che il governo ha appena stabilito come soglia di povertà, che equivale ad 85 euro all'anno di stipendio, diciamo così, che è stata abbassata peraltro, perché fino a dicembre questa soglia era di 119 euro, comunque una miseria confrontata ai nostri parametri europei e italiani. Questo era intanto a Pechino. Intanto a Pechino, intanto in Illinois. Intanto in Illinois ne sono successe. Prima di tutto c'è stato questo comitato che ha raccomandato l'impeachment del governatore Blagojevich. Il voto finale sembra un risultato di quelle partite, no? Quando le grandi squadre vanno a giocare all'oratorio, 114-1 è finita. Non c'è stata partita praticamente. No, c'è stato solo Milton Patterson, democratico del South Side di Chicago, gente dura, che ha detto no, per me Blago deve stare al suo posto. Ma ha motivato la scelta? No. E comincia la procedura di impeachment, comincia il 26 gennaio, è dal 1988 che un governatore non viene cacciato via, in quel caso era Arizona, in quel caso si chiamava Ivan Mitcham, e è capitato soltanto 8 volte. Blagojevich mi sembra sinceramente in rampa di lancio, ma lui non smette, devo dire, di proporsi come star mediatica, se è vero che di nuovo davanti ai microfoni non ha saputo far meglio che recitare una poesia di Tennyson. Ascoltate. I'll leave you with this poem by Tennyson, which goes like this: though we are not now the strength which in old days moved earth and heaven, that which we are, one equal temper of heroic hearts, Tra l'altro noi che siamo, come dire, un po' puntigliosi, siamo andati a cercare, ha fatto un po', come dire, un montaggio, l'ha un po' allestita, la poesia di Tennyson, che si chiama, tratto dall'Ulisse, che è un'opera di grande respiro, ha citato questi versetti in cui dice: indebolito dal tempo e dal destino, ma di grande volontà, io in sostanza continuo a lottare, resistere. Quindi ha recitato una poesia, molla, ma c'è un precedente italiano, Mastella, che ha recitato Neruda quando lasciò l'incarico di ministro della giustizia, poco tempo fa. Sarà contento di questo, di questo paragone. E poi Boris, che ne succede del vecchio Boris, il procuratore dello Stato di Illinois, che sta cercando in tutti i modi di occupare questo seggio al Senato al posto di Obama, ma tutto sommato l'aria non è male. C'è una questione burocratica complicatissima, ma i capi, i grandi papaveri democratici del Senato, tutto sommato sono favorevoli. Resterà al suo posto. E intanto torniamo in Cina, dove nessuno recita poesie, però riprendiamo una storia che invece abbiamo accennato rapidamente venerdì scorso, perché c'era un serial killer che si aggirava nella provincia dell'Hubei, peraltro con 8 omicidi sulle spalle. Ebbene, quest'uomo, che si chiama Xion Zhenlin, è stato catturato, quindi efficientissima la polizia locale. Quest'uomo aveva ucciso 8 persone, compresa una donna, una vedova, e poi il nipote di 2 anni. Tra l'altro aveva inferito con un'ascia, era un omicidio particolarmente efferato. A quanto pare quest'uomo aveva divorziato dalla moglie e cercava proprio di sposare, di impalmare questa vedova, che invece si è rifiutata, forse è spaventata anche dei modi un po' violenti dell'uomo, che a questo punto è andato via di matto, come si dice in questi casi. Purtroppo ha ucciso la donna, ha ucciso il nipote e poi ha infierito anche su 6 dipendenti che aveva ucciso. Un quadro straordinario, devo dire. Va bene, vi ricordo che Platero e Rampini sono in diretta con noi nell'ordine appena citato. Usate SMS e Facebook per porre domande. Does you wrong, you think all you can do is leave her. But let me tell you that all you had to do is say, I told you I'd forgive you. You said that you were sorry. You said that man wasn't stealing your love. He was only borrowing. You said you only wanted me. You'd mend your cheating ways. And I said, okay, today now, baby, but tomorrow is another day. I'm gonna get you back. Your car down, babe, and now I'm gonna get your bag. Hey, I know you seen that fine looking thing lives just down the street, and you can see the look in her eye every time we meet. Oh, I can tell from the way she talks that she wanted something more. Get some good loving at home. You can always go next door. I'm gonna get your back. Gonna go out on the town. Get your back. With our new girl around. To get play your cheating game. Now I'm on the attack. Cause you done laid your car down, baby. And now I'm gonna get your back. Casa Bianca. Il passaggio di consegne. We'll create nearly half a million jobs by investing in clean energy. Sempre Obama nel suo discorso della domenica: creeremo 500.000 di posti di lavoro investendo nell'economia pulita, raddoppiando la produzione di energie alternative nei prossimi 3 anni e modernizzando il 75% degli edifici federali, aumentando l'efficienza energetica in 2 milioni di case americane. Ci avete scritto in parecchi, anche in relazione, no, a questa febbre mediatica attorno a Barack Obama. Dan vuole sapere se anche ieri non è andato in chiesa. Non si fa accenno delle attività religiose del presidente sui molti siti che lo seguono passo passo, e un ascoltatore si lamenta, dice: speriamo che non ci tengano informati anche della regolarità intestinale. Beh, ci potrebbero essere dei siti vicini a posizioni così. Vedremo, vedremo. Ma come vi abbiamo detto, non è tutto oro quello che luccica attorno a Barack Obama, anche in aree liberal. Giornalisti, editorialisti cominciano a prendere posizioni più diversificate. Per esempio, sul New York Times da qualche tempo escono articoli, diciamo, preoccupati riguardo al piano economico di Barack Obama. Uno è a firma di Jeff Zilini, uno dei veterani sulle tracce di Obama dai tempi della campagna, che per esempio esprime dei dubbi sulla possibilità che Obama vada incontro a un doppio mandato presidenziale, insomma che rivinca, pensate, se ne parla già adesso, che rivinca le elezioni nel 2012. Difficile immaginare che possa essere rieletto, scrive Zilini, se l'economia si troverà allo stesso punto in cui si trova adesso. Non mi sembra una osservazione sbagliata. Dice deve comunque focalizzarsi sulla economia. Non sentirete parlare di interventi riguardo alla questione della sanità per quest'anno, non sentirete parlare di un tetto per le emissioni di carbone, se ne parlerà forse l'anno prossimo, e lui è completamente, Obama è completamente focalizzato sull'idea di dare opportunità e non vuole per ora sentir parlare di austerity, e il giornalista su questo argomento esprime qualche dubbio. Andiamo vicino alla notizia, andiamo a New York da Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, per capire che aria tira. Lui poi tra l'altro è in partenza per Washington, dove assisterà all'inaugurazione, vero Mario? Verissimo, sì, ormai è fine settimana, ma manca pochissimo, siamo agli sgoccioli del passaggio di staffetta. Ti dirò che oggi ho seguito con una certa emozione la conferenza stampa d'addio di George Bush, una riflessione su 8 anni, questi 8 anni in cui lo abbiamo seguito giorno per giorno, e dunque quando si arriva comunque all'ultimo episodio, all'ultima tappa, direi che comunque un minimo di emozione, di interesse emotivo c'è, soprattutto in attesa poi della nuova che si aprirà, che sarà. Che giudizio dai della sua uscita di scena? Come ti è apparso nella conferenza stampa? Ma guarda, è apparso piuttosto rilassato, come sempre sicuro di sé, ha ammesso i suoi errori, non ha voluto entrare in polemica, soprattutto con i giornalisti che lo provocavano, perché poi fino all'ultimo è stato provocato, fino all'ultimo i giornalisti americani cercano di fare notizia, quindi è stata una conferenza stampa vera e propria, ma direi che grosso modo le cose che le aveva già dette, gran parte delle cose, certo, che sappiamo, si rammarica per gli errori che sono stati fatti nel reperimento dell'intelligence sull'Iraq, ritiene di aver commesso qualche errore, ma errori minori. Per esempio dice che su Katrina secondo lui ci fu un errore e si è dilungato, diciamo, nello spiegare il perché. Ha detto, ha ripetuto cose che aveva ripetuto prima, di non condividere coloro che si muovono così lungo la linea di dare qualche cosa all'opinione pubblica, dice altrimenti sarei, questo mi ha colpito perché ha fatto un riferimento d'Europa, dice altrimenti sarei un po' come alcuni leader europei che pur di accontentare l'opinione pubblica sono sempre pronti a criticare gli israeliani e a dire che sono loro il problema, e il problema di tutto. L'errore che ha riconosciuto, cioè qualche volta sulla retorica avrei potuto essere più morbido, soprattutto nei confronti dell'estero, quindi ammissione di non essere stato troppo diplomatico. Ecco, se ci è rimasto un piccolo nodo da sciogliere, ancora piccolo per modo di dire, insomma, riguarda la questione della gestione dei soldi del bailout, ancora non è chiarissima la situazione, il controllo di quei soldi, dico bene? Sì, restano 350 miliardi di dollari che saranno affidati alla gestione di Obama. Bush ha detto che lui farà la richiesta solo se Obama glielo chiederà, e dunque non per che siano usati dal Tesoro e da Paulson in questo momento, ma semplicemente per accelerare i tempi, certo, di modo che nel momento in cui Obama dovesse entrare in campo troverà subito i soldi a disposizione. Bush, devo dire, in questo è stato molto così ligio, è un uomo che crede molto nell'istituzione della Casa Bianca, la vive un po' come un club, ha parlato molto della presidenza, dell'essere presidenti degli Stati Uniti, che cosa significa ogni giorno svegliarsi e avere un certo tipo di responsabilità, ha detto che però alla fine il peso c'è, però alla fine il lavoro è talmente interessante, talmente motivante, talmente straordinario che alla fine i giorni volano e volano sempre alla fine con straordinaria soddisfazione. Gli ha chiesto cosa farà. Ha detto anche che mercoledì mattina porterà lui il caffè a letto. Esatto, mercoledì mattina, come sarà il tuo primo giorno, perché insomma da questa routine in cui ricevi queste, ha parlato molto dei rapporti dell'intelligence che ha trovato sempre straordinariamente importanti, e quindi ogni mattina ricevi i rapporti dell'intelligence che ti parlano di mille cose che capitano nel mondo, mille problemi, mille telefonate, mille responsabilità, e il mattino dopo si ritrova nel ranch in Texas senza niente, dice, ci porterò il caffè a letto allora, quindi glielo faccio, glielo porto, dice, ma dopodiché sono un type A person, quindi una di queste persone, no? A-mail, come si dice in America, quindi mi muoverò, farò sicuramente qualcosa, troverò qualche cosa da fare. Un'ultima cosa, Mario, abbiamo cercato di descrivere, di raccontare un po' anche le reazioni al programma che poco alla volta Barack Obama, anzi con una certa sollecitudine, sta ormai presentando, battendo, no, nei confronti dell'opinione pubblica americana, reazioni diverse, diversificate. Abbiamo parlato di questo articolo scritto da Paul Krugman sul New York Times, il secondo tra l'altro articolo a distanza di pochi giorni in cui esprime posizioni piuttosto critiche. Che cosa ne pensi? Ma dunque, c'è come sempre molta polemica su quello che si sta facendo. Barack Obama ha scelto una squadra economica direi tradizionalista. Vedi, il discorso è sempre lo stesso: da una parte c'è l'ideologia, dall'altra c'è il pragmatismo, e dunque il pragmatismo di Obama è tale che, come ha detto Rahm Emanuel, il loro problema è uno soltanto, è quello di spingere per lavoro, lavoro, lavoro. Certo. Loro devono assolutamente preoccuparsi di creare nuovi posti di lavoro. E allora come si rimette in moto un'economia che ha difficoltà? Beh, ci sono due modi, per esempio attraverso degli investimenti oppure attraverso la redistribuzione fiscale. Bene, la redistribuzione fiscale, secondo Paul Krugman, non funziona, perché finisce per disperdere soldi. Invece il problema qual è? Che se tu fai costruzioni infrastrutturali, prima che si mettano in moto e che ci sia la catena di trasmissione che si mette in moto, ci vuole molto tempo. La restituzione di quattrini sul piano pratico in crediti fiscali avviene immediatamente, già ad aprile questi 300 miliardi potranno essere utili. E c'è, scusami, ultimo punto, il contesto politico. Barack Obama vuole legare coi repubblicani, quindi è disposto di questi 775-800 miliardi di dollari a darne 300 in crediti fiscali in modo da accontentare i repubblicani e cercare di avere tutti sotto. Grazie a Mario Platero, giorno per giorno in questo conto alla rovescia. Ci sentiremo naturalmente per aggiornare la marcia, poi anche quella sarà la marcia solenne, no? Quella fisica che Barack Obama farà verso Washington. C'è questo trenino che, partendo da Filadelfia, ripercorrerà strade lincolniane, farà quella fermata nel Delaware dove saliranno le famiglie, i tipi americani di 16 stati, no? 16 famiglie, 16 stati e il vicepresidente. Insomma, un grande spettacolo alle spalle del quale però c'è un futuro per adesso piuttosto preoccupante. Girl, I'll never give you up, 'cause Given the magnitude of the challenges we face, none of this will come easy. Recovery won't happen overnight. Ancora Obama, vista l'entità della sfida che stiamo fronteggiando, il recupero non avverrà in 4 e 4/8 ed è probabile che le cose peggioreranno prima di migliorare. Depression. Siamo già passati, no? Guerra, depressione, ogni volta abbiamo saputo ricostruire. Questo è lo spirito che ci ha sempre contraddistinto, la convinzione che il destino non sia scritto per noi, ma da noi. That our success is not a matter of chance, but of our own courage and determination. Così parlò Barack Obama, così state reagendo anche alle notizie dell'ultima ora. C'è per esempio chi non è d'accordo, no, con questo trend che sembra così dominante, così invadente, anti-Bush. Un ascoltatore, Luca da Parma, scrive: io invece sono con Bush. La guerra non era nella sua agenda, ma dopo le Torri Gemelle io avrei fatto di più. Ecco dove ha sbagliato, non l'ha fatto. Vedremo Obama come si comporterà con i suoi simili. Gli allarmi di Obama sono chiari, le sue parole risuonano ormai con molta chiarezza, i suoi argomenti altrettanto, ma poi uno va a vedere cosa succede dall'altra parte del mondo e legge per esempio che un economista di Hong Kong ben noto, che si chiama King Wang, scrive: andrà peggio nel 2009, qualsiasi cosa faccia il governo, e qui si parla del governo cinese, non impedirà un'annata di crisi. Sono già sprofondati nella recessione i satelliti economici della Cina. Gli ex dragoni, no? Singapore e Taiwan, fino a Corea del Sud e Giappone. Perciò proviamo un po' ad allargare, no, questo discorso del correre ai ripari che il presidente eletto sta ripetendo ai cittadini americani. Proviamo ad allargarlo, no, facendo addirittura un largo giro intorno al mondo. Arriviamo a Pechino, dove troviamo Federico Rampini, amico del nostro programma, ma corrispondente della Cina di Repubblica e autore recentemente di un libro che è venuto anche a presentare qui in studio, intitolato 100.000 punture di spillo, scritto con Carlo De Benedetti. Buon pomeriggio, Federico, anzi buonasera per te. Buon pomeriggio a voi. Allora proviamo un po' a connettere. Noi stiamo dando conto, stiamo raccontando un po' giorno per giorno lo stabilire una nuova atmosfera collettiva che sembra una specie di anticamera psicologica che Barack Obama sta mettendo in pratica nella sua America, però osservando quello che succede in Cina perlomeno, ma non solo in Cina, come tu stesso hai scritto nei tuoi recenti articoli su Repubblica, quello che si trova è un'atmosfera non troppo diversa, vero? No, c'è un'atmosfera anche in Cina piuttosto pesante nelle regioni industriali come il Guangdong, dove ci sono stati ormai decine di migliaia di fallimenti di imprese e i licenziamenti si contano a milioni. Una stima recente dice che probabilmente più di 10 milioni di lavoratori immigrati dalle campagne sono stati licenziati dalle fabbriche della zona costiera e quindi ricacciati verso le zone rurali più povere. C'è anche lo stesso tipo di trappola depressiva che si sta impadronendo del consumatore asiatico, perché questo riguarda la Cina, è cominciato ancora prima in Giappone, in Corea del Sud, e sta cominciando anche in India. Il riflesso, in questi casi anche la lezione degli anni 30 non è servita, il riflesso che apparentemente è razionale di tutte le famiglie asiatiche in questa crisi è di risparmiare di più. Ma questo non fa che peggiorare la crisi, cioè quello che è un comportamento apparentemente razionale dal punto di vista micro, addirittura individuale, della singola famiglia, cioè arrivano tempi duri, mettiamo da parte, moltiplicato su scala di massa, non fa che rallentare ulteriormente la crescita economica e soprattutto impedisce quell'aggiustamento che è fondamentale dello squilibrio più strutturale di tutti, cioè il fatto che le grandi potenze asiatiche in questi anni hanno avuto un modello di sviluppo trainato dalle esportazioni, principalmente le esportazioni verso l'America e anche verso l'Unione Europea, ma non hanno consumato abbastanza, hanno risparmiato troppo. Ecco. Se vogliamo che il mondo riparta è essenziale che questi consumatori, quelli che io qui intorno a me in questo momento, a Pechino, a Shanghai, a Canton, ma anche in India, nel sud-est asiatico, consumino molto più di quanto hanno fatto finora. E questa sembrerebbe una posizione, come dire, obamiana, no? Niente, per ora niente appello all'austerity, ma piuttosto aumento delle opportunità e sostegno dei consumi, è così? Ma è la posizione obamiana, è anche la posizione del premio Nobel dell'economia Paul Krugman, che è un grande studioso delle depressioni, ha studiato la depressione giapponese degli anni 90, ha studiato la storia della depressione degli anni 30. In queste fasi, come peraltro insegnò Keynes negli anni 30, bisogna buttare alle ortiche ogni regola di equilibrio di bilancio pubblico. Bisogna dimenticare temporaneamente tutte le regole della buona gestione, dell'ordine dei conti, sia pubblici che privati, perché si rischia una tale paralisi nella crescita che non si può badare a spese pur di rilanciare il motore dell'economia, altrimenti questo motore si inceppa completamente e allora diventa molto molto difficile metterci le mani e farlo ripartire. Per concludere, pensi possa essere ipotizzabile anche per la sfera cinese quello che Barack Obama sta ripetendo agli americani, ovvero guardate attenzione, è assai probabile, è quasi sicuro che prima che migliorare le cose peggioreranno ancora, è un discorso che si può applicare anche a questo scenario? È un discorso che si applica quasi sicuramente all'intera Asia, sia perché abbiamo visto con il neologismo coniato dal grande storico dell'economia britannico Niall Ferguson, neologismo chimerica, abbiamo visto quanto siano state legate in questi anni da una simbiosi totale all'economia americana e quella cinese. Quindi o affondano insieme o ripartono insieme, insomma, certo, non c'è nessuno sganciamento dell'una dall'altra. E poi bisogna ricordare che la crisi in Asia è arrivata in ritardo, c'è stata una sfasatura temporale per cui la Cina ha scoperto l'impatto grave di questa crisi soltanto nell'ultima parte dell'autunno 2008, mentre in America era cominciata assai prima. E quindi è molto improbabile che la Cina ne esca rapidamente, deve ancora fare il suo corso anche qui in Asia la crisi. Grazie a Federico Rampini, ci risentiremo presto. Un ascoltatore scrive sul nostro sito Facebook, si chiama Michele: tutte le speranze del mondo sembrano passare per Obama, le speranze anche di chi non ha speranze, e tutto questo mi spaventa un po'. Domani, tra l'altro, c'è un appuntamento importante che cercheremo di seguire in modo congruo. Tra l'altro si accorda con gli orari del programma. Alle 9.30 domani mattina a Washington si riunisce il comitato incaricato di dare il via libera a Hillary Clinton per il segretariato di Stato, in pratica l'udienza che deve pensare a confermare il mandato. I ben informati dicono che Hillary è preparatissima, lei agli esami sa come andarci. Scrive un osservatore che se le verrà lanciata qualche palla un po' violenta, lei risponderà con un fuoricampo. E poi ci tranquillizza a tutti, dice tanto non è con lei che ce l'hanno i repubblicani, pare che l'obiettivo su cui sparare se lo sono scelto ed è Eric Holder, si tratterà di lui se si tratterà di alzare polveroni che ci si occuperà, la strada di Hillary Clinton a patto non vengono tirati fuori scheletri d'armadio di cui nessuno per ora ha sentito parlare, sembrerebbe spianata. Ne riparliamo domani, questo è Jefferson Minghi, sono Stefano Pistolini, in redazione Emiliano Enrico, in regia Roma Alessandro Chiappini, a Milano Pietro Lacorte, la mail è jeffersonminghi@radio24.it, ma ormai lo sapete, ci trovate su Facebook, abbiamo due siti, uno è un sito fan, un sito bacheca dove potete scrivere le vostre idee sul programma e sulla programmazione che vi presentiamo, si chiama Jefferson Minghi Radio 24, per parlare con noi della redazione usate redazione Jefferson Minghi, trovate i link anche sul sito della radio. Questa puntata va in replica stasera alle 9, altrimenti ci sentiamo come al solito attorno alle 4 domani qui su Radio 24. Chi 生涯性沉默的人最终